Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere, poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Nome lunghissimo, soprannome cortissimo, faccia simpatica, capelli color carota raccolti in due treccine che sfidano la legge di gravità, dentoni sporgenti e un sacco di caratteristiche a partire dall'incredibile forza fisica che fanno della nostra amica immaginaria di oggi una bambina decisamente fuori dal normale. Pippilotta, Virtualia, Rolgardinia, Succiamenta e Frasilla calze lunghe. Pippi per gli amici. Ecco, sono qui, Pippi Calzalunga, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. E lei, la nostra amica immaginaria di oggi, Pippi Calzelunghe, la bambina più eccentrica e sorridente della storia della letteratura per ragazzi e della televisione, nata più di 60 anni fa dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren. Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Pippi, Pippi, Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi non riderete per quello che farò. Pippi Calzelunghe? Sì, è quella di qui, che è sempre così. Sì, esatto, quella. Quella che è sempre cosa? Volevo dire che è sempre così sfacciata. Sì, certo. Pippilotta, Virtualia, Rolgardinia, Succiamenta e Frasilla calze lunghe è meglio nota come Pippi calze lunghe. Età 9 anni, capelli rossi, trecce piegate all'insù, scarpe di 5 misure più grandi del suo numero. È lei la nostra eroina, creata dalla scrittrice Astrid Lindgren, che raccontava le sue avventure alla figlia malata e che le pubblicò nel 1945. Pippi arriva all'improvviso nella svedese Visby, cittadina sull'isola di Gotland, e si stabilisce a Villa Villa Colle. Con lei ci sono Zietto, un cavallo bianco a pua neri, e una scimmietta, signor Nilsson. Dotata di una forza sovrumana, è capace di sollevare il suo cavallo, ma è regina di anticonformismo e paladina di indipendenza e libertà. Fa amicizia con Tommy ed Annika, bambini della sua età che si intrufolano nella villa. La sua fortuna, una grossa borsa con monete antiche, viene dai pirati dei mari del sud e l'ha conquistata suo padre, il capitano Efraim. Per lei molte avventure e niente scuola, il sogno di tanti bambini. La Pippi della TV è Inger Nilsson, attrice in giovane età e poi segretaria a Stoccolma. Aveva 10 anni quando nel 1969 interpretò il telefilm tratto dalla storia della Lindgren e 3 lungometraggi. Sono suoi gli occhi blu, le lentiggini e i capelli color carota che hanno reso Pippi famosa nel mondo. A quel capitano che una volta ho incontrato a Yokohama, imprecava così forte che dalla bocca gli uscivano lingue di fuoco e gli insulti che usava erano tali che la gente tutto intorno cadeva a terra tramortita. Sei caduta anche tu, Pippi? No, non cado facilmente. 13 gli episodi della versione originale della serie, 21 quelli italiani, a cui si aggiungono 2 film usciti nel 1970. Del 1988 la serie animata. La mamma del personaggio di Pippi Calzelunghe, lo avete sentito, è la scrittrice svedese Astrid Lindgren, nata a Vimmerby nel 1907 e morta a Stoccolma nel 2002. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 70 lingue, dall'arabo allo zulu. Il suo lavoro più noto ovviamente è Pippi Calzelunghe, ma la Lindgren scrisse più di 115 racconti, compresi gialli, storie d'avventura e fantasy. Impegnata per molta parte della sua vita nella difesa dei diritti dei bambini e degli animali, Astrid Lindgren creò il personaggio di Pippi Calzelunghe per la figlia, durante una malattia di quest'ultima, ma fu proprio la figlia a inventarne il nome, Pippi Calzelunghe, come ci racconta la scrittrice Paola Calvetti. il nome Pippi Calzelunghe lo aveva inventato la bambina, cioè la mamma, l'autrice Astrid Lindgren, raccontava, insomma, doveva far compagnia alla bambina che aveva una polmonite. La bambina le disse: mamma, raccontami la storia di Pippi Calzelunghe, e la mamma ha iniziato a raccontarlo, ma il personaggio immaginario l'ha inventato la bambina, dopodiché la mamma gli ha dato un carattere. Poi succede che la bambina ovviamente guarisce e la scrittrice dopo qualche mese cade sul ghiaccio. È costretta a stare ferma perché si era rotta una gamba e riprende in mano tutti gli appunti che aveva preso, la storia di Pippi Calzelunghe, e da lì inizia ad accorgersi che era molto divertente e nasce il personaggio. Quindi non solo nasce come bambino immaginario, come amico immaginario della bambina, ma la mamma l'adotta subito e la trasforma in un personaggio planetario. Per noi italiani Pippi Calzelunghe è soprattutto un ricordo televisivo, il ricordo di un volto di bambina simpatico e riverente in qualche modo, il viso di quella che allora, nel 1970, era una bimba di 10 anni, Inger Nilsson. I capelli sono ora sciolti e un po' meno color carota di un tempo, ma il sorriso è sempre lo stesso, quello della Pippi della TV. È Inger Nilsson. Aveva 10 anni quando, nel 1969, interpretò il telefilm tratto dalla storia della Lindgren e 3 lungometraggi. Sono suoi gli occhi blu, le lentiggini e i capelli rossi che hanno reso Pippi famosa nel mondo. 13 gli episodi della versione originale della serie, 21 quelli di quella italiana che aggiunse 2 film usciti nel 70 come naturale prosecuzione del telefilm. Attrice in giovane età, fu difficile scrollarsi di dosso i panni della bambina, che qualche volta diventa magica, e fece la segretaria per anni a Stoccolma, per tornare di nuovo sul piccolo schermo in serie TV svedesi e tedesche solo nel nuovo millennio. Sul set, è stata lei a raccontarlo, giocava davvero con Tommy e Annika durante le pause di lavorazione, è rimasta in contatto con Astrid Lindgren fino alla morte della scrittrice e dice che la Pippi di oggi è Madonna. Ma voi riderete per quello che farò. Il pirata Zio Fabian dalle Antille al Martaban, percorrendo tutti i mari, se ne andava a saccheggiare. E tra poco sentiremo i ricordi di quell'esperienza di Inger Nilsson grazie a una recente intervista realizzata dal canale satellitare Dea Kids per uno speciale su Pippi Calzelunghe. Prima però scopriamo il mondo della nostra amica immaginaria. A parte quando compie scorribande in giro tra campagna, mari del sud e voli in mongolfiera, Pippi vive a Villa Villa Colle, una specie di luogo magico, soprattutto per i suoi 2 amici del cuore, Annika e Tommy, 2 bravi bambini, si direbbe, toccati dalla magia di Pippi. Parliamo prima di Annika. Dolce, sensibile e obbediente, è Annika, la migliore amica di Pippi. Partecipa insieme al fratello Tommy a tutte le avventure della figlia del pirata. I 2 bambini, anche loro hanno 10 anni, sono gli unici a fare amicizia con Pippi al suo arrivo a Visby. Astrid Lindgren li descrive come molto gentili e ben educati. Annika non si mette a strillare quando non riesce ad averla vinta e se ne va sempre in giro tutta pulitina, attenta a non sporcare i suoi vestiti ben stirati. Dopo aver conosciuto Pippi, però, è raro che rincasi senza riportare un abito irriconoscibile. Accipicchia, ho dimenticato di lavare le orecchie a Conrad. Anche stavolta mi è andata bene. Mi deve promettere che domani mattina se le laverà, l'aiuterò io. Aha, stai parlando proprio come tua madre, Annika. Senti, mi spieghi perché in piena estate dovrei lavarmi le orecchie? Chi vende una colla così buona non può avere le orecchie sporche. Io sono abituato a star sola e con le orecchie sporche. Allora è venuto il momento di cambiare abitudine. Smettila, Annika. Gli puoi lavare le orecchie questa volta, ma se non lo incontriamo più, come farai? Non importa, meglio avere le orecchie pulite una volta che mai. Il pirata Zio Fabian dalle Antille al Martaban. A interpretare Annika era Maria Persson, sorriso aperto e capelli castani. Ha fatto l'attrice per 2 anni, fra il 1969 e il 70, interpretando il solo ruolo dell'amica di Pippi. Avrebbe voluto sfondare sul palcoscenico e per farlo frequentò una delle migliori accademie teatrali di Svezia, ma il successo non arrivò. Dopo aver abbandonato le scene si è trasferita a Maiorca insieme al marito, lavorando come barista. bentrovati all'amico immaginario. Senti Pippi, a cosa ti serve una scimmia? Come si chiama? Si chiama signor Nilsson. E il cavallo? Lui non ha un nome ben preciso, io lo chiamo semplicemente Zietto. Ci siamo lasciati parlando del mondo di Pippi Calzelunghe, un cavallo di nome Zietto, la scimmia Mr. Nilsson, gli amici del cuore, Tommy e Annika. Io mi chiamo Pippi e voi due chi siete? Io mi chiamo Tommy. E io Annika. Dimmi un po', Pippi, perché dormi con i piedi sul cuscino? Te lo spiego subito. In Egitto tutta la gente dorme con i piedi sul cuscino e con la testa tra i piedi e dormono così profondamente che al mattino hanno bisogno del cannone per svegliarsi. E tu come fai a saperlo? Vuoi dire forse che sei stata in Egitto? Naturalmente, io sono stata in ogni parte del mondo. Dici davvero? Smettila, stai dicendo delle bugie. Sì, è vero, ho mentito. È terribile, ma è più forte di me. Non si devono dire le bugie, non lo sai? Sì, lo so che non è bello dire le bugie. Però ascolta bene, in Egitto la gente dice bugie dalla mattina alla sera. Cominciano di buon mattino a raccontarle, lo sapevi? Fino a quando non si fa notte e anche mentre dormono. E adesso che cosa mi dici? E di Annika abbiamo già parlato. Tommy è bravo, gentile ed educato, almeno quanto la sorella. Anche se quando è con Pippi fa cose che altrimenti non penserebbe neppure. Ma stare con Pippi fa proprio questo effetto. È così meraviglioso qui da Pippi. Nella villa Villa Colle si può fare tutto ciò che a casa è proibito. In ogni stanza c'è sempre qualcosa di nuovo. E questo è quello che noi abbiamo sempre desiderato. Tanto sono rossi i capelli di Pippi quanto sono biondi quelli di Tommy, il suo migliore amico. Con la sorella Annika conosce la nuova vicina e ne diventa subito compagno di avventure. Coraggioso, come si addice a un ragazzo, ha però la gentilezza e le buone maniere della sorella. Così si legge nel romanzo, mai che si mangiasse le unghie o si sognasse di non fare quello che la mamma gli chiedeva. Come per la giovane attrice che interpretava Annika, anche Per Sundberg, Tommy sullo schermo, non ha sfondato come attore. Per la verità non ci ha nemmeno provato. Aveva 13 anni quando girò la serie e i film e questa è rimasta la sua unica esperienza artistica. Ora è un dirigente di una catena di supermercati svedesi e ha lavorato come PR per un'agenzia pubblicitaria. Pippi ha caratteristiche particolari, è l'amico immaginario perfetto per ogni bambino e non solo. Ha poteri speciali, prima di tutto una forza sovrumana, agilissima come un'artista circense, può camminare eretta su pareti verticali, in una puntata della serie televisiva addirittura vola. Insomma, un'amica immaginaria magica. E poi con lei, Tommy, Annika e tutti i bambini che in loro si sono immedesimati nel corso dei decenni, vivono fantastiche avventure. Trallallero, trallallò. Ehi, Pippi, vogliamo entrare qui? Certo, compriamo le caramelle. Allora, che cosa volete, miei piccoli? 9 chili di caramelle assortite. 9 chili? Intendevi dire 9 caramelle, vero? Io voglio proprio 9 chili di caramelle. Pippi, Pippi, Pippi. Un'altra delle tante caratteristiche di Pippi è quella di raccontare storielle, o forse bugie articolatissime e divertenti, una per ogni occasione. Storielle di avventure, tutte quanto mai improbabili e al contempo verissime. Chi ride così? È il tuo papà? Si vede che avrà visto o sentito qualcosa di molto divertente. Si sarà ancora raccontato qualche storiella che non conosceva. A proposito, ne so una nuova, volete che ve la racconti? Sì! Dall'altra parte di Takatuka, dove mio padre è il re dei negri e io la principessa, avevo raccolto una noce di cocco così grande che 2 bambini negri potevano farci il bagno dentro. Che c'è? Non vi piace la mia storia? Sì! Sì. Niente, sapessi che tempesta ho visto. Lo credo, hai fatto tanti di quei viaggi per mare, tu. Quella più terribile è stata nell'Oceano Pacifico. E non hai avuto paura? Certo. Vedere il gatto di bordo volar via spogliato della propria pelliccia mi ha fatto una certa impressione. Il gatto spogliato della pelliccia? Sì, è volato via tutto nudo, in aria, verso est. Con un topo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare. Pippi vive in modo completamente autonomo e resiste in qualche misura al mondo degli adulti, rappresentato dalla signora Porcelius, l'assistente sociale che cerca di portarla in orfanatrofio e di aiutarla contro la sua stessa volontà, oppure due poliziotti, imbranati e sempre alla ricerca di un modo per bloccare le iniziative di Pippi. Pippilotta resiste con forza, ma sempre con il sorriso. Sentiamo la scrittrice Paola Calvetti. Lei, Pippi, è una no global in senso positivo, è una pacifista anti litteram, anche se va, diciamo, a combattere per esempio per salvare il padre, no? Per andare a salvare il padre, cioè è forte fisicamente, è una bambina che rappresenta l'archetipo della ribellione pacifica, però non della ribellione che ha la saggezza dentro, e quindi ovviamente per crescere si ribella all'autorità, si ribella, poi si ribella all'arroganza, cioè lei è serena, è molto buffa e molto allegra nel rivendicare i suoi diritti, ma anche i diritti per esempio a vestirsi come vuole, no? Ha le scarpe più grandi, a tutto quello che qualsiasi, l'innocenza pulita dei bambini, che è anche un'innocenza furba, solo che lei, forse perché è piccola, riesce a esprimersi, come dire, in modo irriverente, in modo spontaneo. Papà, adesso però vieni anche tu con me a Villa Kunterbunt e restiamo sempre insieme. No, ho paura che non andrebbe bene per me. Un marinaio deve sempre avere il naso sotto vento. La mia nave e i miei uomini mi aspettano. Lo sai tu quello che devi fare, ma ci rivediamo presto, vero? Ma certo. Un elemento fondamentale della storia è l'assenza dei genitori. La mamma di Pippi è morta e lei la immagina su una nuvola, con lo sguardo sempre rivolto in basso a guardarla e proteggerla. Il padre, re dell'isola di Takatuka ed ex pirata, è sempre in viaggio per i mari del sud. Ancora Paola Calvetti. Non è che non ha bisogno di genitori, tutti gli indiani hanno bisogno di genitori, no? Però lei deve arrangiarsi da sola e lo fa in modo allegro, cioè in lei non c'è quella componente, secondo me un po' fastidiosa, che hanno tanti protagonisti poi dei cartoni animati, delle fiabe successive, quelle degli anni 80, degli anni 70 per esempio, no? Tutti bambini sfortunati, orfani, guarda Heidi. Lei assomiglia molto come personaggio a Pollyanna. Cosa hanno in comune Pippi e Pollyanna? Il fatto che, come tutti gli amici immaginari, cercano e trovano nella fantasia tutto quello che non trovano nella realtà. Pollyanna faceva il gioco della felicità, cercava le cose positive in ogni cosa, no? E lo stesso fa Pippi Calzelunga, usa delle altre strategie, però è tipico del bambino che sta senza genitori, cioè ha delle caratteristiche tipiche dell'orfanilità, come in Dickens, no? In Pippi non c'è l'aspetto patetico, l'aspetto di tristezza, proprio perché l'ha inventata una bambina che aveva vicino la sua mamma. Pippi, tu hai la mamma e il papà? Certo che li ho, solo che adesso non sono qui. Ma allora chi ti dice di andare a letto la sera? Nessuno. Io comincio con molta gentilezza a dirmi: Pippi, va a dormire. E se non mi do retta, mi dico con molta autorità: Pippi, va subito a letto. E allora sì che obbedisco. Prendo il pigiama e vado a letto. L'abbiamo detto, Pippi Calzelunghe è l'amica immaginaria ideale, l'amica che possiamo guardare mentre fa cose spericolate, che ci stupisce in ogni momento e ha sempre una nuova avventura da raccontarci o da farci vivere. Ancora Paola Calvetti. Le bambine si identificano, i maschi probabilmente vorrebbero un'amica così, perché è una bambina, tra virgolette, quasi asessuata, per cui il bambino maschio che la vede non vede in lei la seduzione, non so come poteva essere Lady Oscar, la Sirenetta, cioè altri personaggi, no? Pippi Calzelunghe è quasi una bambina senza sesso, non c'è nessuna componente di seduzione nel suo rapporto. E poi ha questo rapporto con gli animali che è bellissimo, col cavallo, con la scimmia, cioè è tutto Pippi Calzelunghe, capito? È tutto quello che noi vorremmo essere. Poi è molto carina, molto buffa, il fatto che lei l'abbia disegnata rossa, vestita così, con le treccine, cioè è bella anche dal punto di vista morfologicamente carina, però non è stucchevole, è piena di difetti, ha i dentoni grossi, quindi è chiaro che un bambino si può identificare. Pippi inventa storie, avventure, modi di dire e parole nuove, come lo Spunk, protagonista di una puntata della serie televisiva. Oh, devi stare veramente male. Che cos'hai, piccola? Una malattia pericolosa, dottore. Lo Spunk. Lo Spunk? E che Spunk? Mi fa male qui e dappertutto. E poi, dottore, quando mi addormento non mi si chiudono gli occhi. occhi. Beh, allora può essere una cosa grave. E ogni tanto mi viene da fare... Capisco. Quando comincio è terribile. Sapesse che domenica ho passato e avevo solo mangiato una minestrina con un po' di lucido per scarpe. Il caso sta diventando più complicato. E sì, ora sdraiati su quel lettino, ti devo visitare. Va bene. Io scommetto che sei molto brava a fare le linguacce, non è vero? Sì. Bene, allora fanne una a me. Di a. Grazie, cara, basta così. Tu hai un battito normalissimo. Sì, però io ho uno spunk dentro di me. È contagioso? No, non è contagioso. Comunque tu non hai nessuno spunk. Mi levi una curiosità. Esiste una malattia che si chiama spunk o no? No, che non esiste. E sono certo che anche se esistesse tu non potresti mai prenderla. È meraviglioso! Allora sono sanissima! Sì, stai pure tranquilla. Bentrovati all'amico immaginario. La possibilità di rivedere in TV la nostra amica immaginaria Pippi Calzelunghe ce l'abbiamo grazie alla programmazione del canale satellitare Dea Kids, che da tempo programma la ventina di puntate disponibili nella versione italiana. Di recente inoltre Dea Kids ha realizzato uno speciale su Pippi, in onda ancora ad ottobre, intervistando l'attrice che la impersonò ormai quasi 40 anni fa, Inger Nilsson. La sentiremo tra poco. A Massimo Bruno, direttore canali tematici di Agostini, chiediamo il motivo del successo, anche con i bambini di oggi, del telefilm. Il pirata zio Fabian, dalle Antille al Martaban. Oh, Pippi, che avventura meravigliosa. A casa voglio raccontare tutto quanto alla mamma, ma non mi crederà. Ma sicuramente c'è una dose così esotica di fascinazione per questo essere liberi, però la cosa bella di Pippi è poi anche nel raccontarti tutti questi aspetti legati alla libertà, a non andare a scuola, a non avere i genitori, però proprio perché il bambino non si identifica in lei, ma la vede come un amico immaginario, come dicevamo, alla fine si costruisce anche un'idea della realtà ben proporzionata, cioè che cosa è giusto, cosa non è giusto fare. Cioè lei lo può fare perché Pippi, quindi è la mia amica immaginaria, però io so che devo andare a scuola perché è giusto così. Cioè alla fine Pippi Calzelunghe, per quanto sia rivoluzionaria per certi aspetti, però insegna molto bene anche la differenza tra quello che si deve fare e quello che non si deve fare. L'elemento proiettivo in questo caso appunto è fondamentale. Io mi vedo più, voglio dire, come Tommy o Annika, che sono gli amichetti che sono sempre con lei, non come Pippi. Quindi, nonostante la nostra amica immaginaria si arrampichi ovunque, si tuffi nel mare infestato di squali, salga su palloni aerostatici improvvisati e così via, non è un personaggio pericoloso che dà il cattivo esempio. Ancora Massimo Bruno. Sì, assolutamente, visto che Pippi appunto è un personaggio immaginario, quindi è quello in cui un ragazzino non si identifica. Un ragazzino non farà mai le cose che Pippi fa di strano, quindi camminare sul filo, faccio degli esempi perché poi conosco gli episodi a memoria, camminare su un filo da una casa all'altra, non lo fa, lo guarda il ragazzino, ride, dice guarda Pippi sta facendo questa cosa, mamma, ma mamma non è giusta questa cosa qui, è il ragazzino stesso che scatta, no, in quel momento la sua percezione di cosa è giusto, cosa non è giusto. È un telefilm molto safe, come dicono gli americani, quindi molto sicuro, quindi al di là di quello che lei fa di straordinario, ha la forza di alzare un cavallo con le braccia, ma nessun bambino si sognerebbe di andare ad alzare un cavallo perché vi sono episodi di Pippi Calzelunghe. Ehi Pippi, vieni a vedere cosa ho trovato. Chissà chi avrà lasciato qui questa botte. Sembra ancora in buono stato. In una botte così una volta ho affrontato le cascate del Niagara. Che bello ragazzi, roba da non credere. Ricominci con le tue storie inventate, Pippi. Non invento nessuna storia, ti mostrerò come ho fatto. Non fare sciocchezze, Pippi, io ti credo. Niente paura, è meno pericoloso di quanto sembri. No, Pippi, non farlo. Non frignare e canta piuttosto. Dammi il coperchio, Tommy. Vieni. Io ho paura. Molto bene, Tommy. Ora fate rotolare la botte nell'acqua. Sta attenta, Pippi. Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Dicevamo dello speciale di Dea Kids, il cui pezzo forte è l'intervista con Inger Nilsson. Il sorriso, nonostante gli anni passati, è intatto e facciamo fatica a non immaginarla con le treccine rosse e le calze di colori diversi. Sentiamo ancora Massimo Bruno. Sì, allora abbiamo deciso di fare raccontare a, a quella che è stata l'attrice appunto che ha impersonato Pippi Calzelunghe e che comunque continua ad avere il sorriso di Pippi Calzelunghe. Questa cosa è molto divertente, adesso in radio non si può vedere il sorriso, però insomma sul video sì. Abbiamo deciso di intervistarla per farci raccontare com'è stato per una ragazzina in quell'età lì diventare il personaggio più famoso in Svezia in quel momento in poi, da, quando è uscito appunto il telefilm, e poi diventare uno dei personaggi più famosi in tutto il mondo. Un giorno in televisione hanno detto che cercavano tre bambini per girare la serie televisiva di Pippi. E ricordo che mio padre mi ha guardata e poi mi ha detto: potremmo mandare delle foto di Inger. Così ho fatto, vabbè, ho fatto diversi provini e poi alla fine mi hanno scelta. È stato così bello lavorare tutti insieme e avere la possibilità di viaggiare. Siamo andati alle Barbados, in India. Alcune parti sono state girate in Jugoslavia. È stato bellissimo poter vedere tutti questi posti. Io non avevo mai viaggiato prima di allora. Ho capito che sarebbe stato un grande successo quando l'hanno mandato in onda per la prima volta. Ne ha parlato la stampa, la gente. Era come se la Svezia si fosse fermata quel giorno. Credo che tutti, veramente tutti, l'abbiano visto e ne abbiano parlato. È stato un incontro molto bello perché abbiamo rivissuto un po' quello che è stato il clima che si viveva quando è stato girato il telefilm Pippi Calzelunghe con la scrittrice Astrid Lindgren, che stava sul set e insieme ai ragazzini costruiva appunto la puntata. Ho un bel ricordo di Astrid Lindgren. Era una persona fantastica. Siamo rimaste in contatto anche dopo aver girato la serie TV. Ed è sempre stato bellissimo parlare con lei. Avevi la sensazione di conoscerla da sempre. Era fantastica. È stata veramente un'intervista molto emozionante che poi appunto potrete rivedere in onda su Dea Kids, che abbiamo deciso di condividere sia con i bambini che anche con i genitori, perché poi alla fine i ragazzini di oggi sono molto svegli. Per loro è anche normale che Pippi appunto è un telefilm e che poi la bambina è cresciuta, è diventata un'attrice, ed è bello anche rivivere attraverso il suo racconto tutto il backstage, diciamo così, del telefilm. Durante le riprese io, Tommy e Annika vivevamo insieme e con noi c'era un insegnante. La mattina lavoravamo e il pomeriggio facevamo i compiti. Sì, qualche volta abbiamo litigato, ma mai niente di serio. Sul tetto del vagon con gli amici notte di ci sono le pecorelle e splende allegro il sol. Le margherite ridon ti fanno bene al cuor. Libellule che danzano sui bei vermigli fior. I named the horse in the movie. Sì, è vero. Ho dato io il nome al cavallo. Io lo vedevo molto grande rispetto a me e mi faceva un po' paura. Ma sono andata a parlargli e toccandolo gli ho detto: ciao zietto. E così abbiamo deciso di chiamarlo zietto. So now the horse's name, the little uncle. E nel febbraio del 2005 una TV tedesca ha messo in piedi una reunion facendo rincontrare appunto dopo tanto tempo la protagonista di Pippi Calzelunghe, Inger Nilsson, con gli interpreti di Tommy Par Sundberg e di Annika Maria Persson. Inger Nilsson ne ha parlato brevemente nell'intervista a Dea Kids. Sentiamo ancora il direttore dei canali tematici di Agostini, Massimo Bruno. Küche unserer Villa Kunterbund, nämlich da sind sie, Tommy und Annika. Inger, wenn sie kommen wollen. Wir machen dann. So, Maria Persson und Per Sundberg, Tommy und Annika. In effetti era da molto tempo che non si vedevano, però lei ci ha detto: quando ci siamo visti pensavamo di essere fratelli, cioè come se il tempo non fosse passato, perché questi ragazzini comunque hanno studiato insieme, hanno vissuto assieme, hanno fatto viaggi insieme, perché poi ci sono delle puntate di Pippi girate anche appunto all'estero, quindi fra di loro si è creato veramente come se fosse un legame di sangue. Quindi quando ci ha raccontato di questa reunion, in effetti era stato un momento molto toccante che appunto poi nell'intervista viene accennato. Il video dell'incontro, per chi volesse vederlo per scoprire l'aspetto dopo 40 anni degli ex bambini del telefilm, è sul profilo Facebook dell'amico immaginario. Pippi, pippi, pippi. Pippi Calzelunga è famosissima ancora oggi in tutto il mondo. A Fürstenwalde, in Germania, non molto tempo fa, è stato addirittura stabilito un record legato alla creatura di Astrid Lindgren, il più grande raduno di sosia di Pippi. Si sono presentati 900 bambini e adulti, tutti con treccini e lentiggini, finendo pure nel Guinness dei primati. In Svezia Pippi e la sua creatrice sono qualcosa di più, sono in qualche modo nella storia e nei riferimenti culturali non solo della letteratura per ragazzi. Un autore svedese, Stieg Larsson, creatore della trilogia di Millennium iniziata con Uomini che odiano le donne, ha in qualche modo fatto tornare Pippi in versione moderna e decisamente un po' meno tranquillizzante. La protagonista dei tre romanzi, che ad oggi hanno venduto 27 milioni di copie in 40 paesi, è Lisbeth Salander, giovane disadattata, hacker senza scrupoli, molto diversa da Pippi, ma con tratti anche molto simili, elementi presenti in un libro dal titolo Guida alla trilogia Millennium di Le Beau Guillem, edito in Italia da Vallardi. 74774 è la password del palmare di Lisbeth Salander, ma sono anche i numeri che, se digitati sulla tastiera del cellulare, formano il nome Pippi. Sulla porta dell'appartamento dell'eroina della trilogia Millennium c'è un falso nome, V.Culla, che suona molto vicino a Villa Colle. Sono solo due esempi di quelle che non sono coincidenze, perché Lisbeth e Pippi qualche anno dopo, già nelle intenzioni di Stieg Larsson. Ho cominciato, ha scritto in un'email al suo editore, l'autore svedese, a pensare a Pippi Calzelunghe, come sarebbe stata oggi. La trasformai in Lisbeth, 25 anni, una ragazza completamente al di fuori della società, non conosce nessuno, non ha alcuna capacità di socializzare. Due ragazze che hanno imparato a cavarsela da sole, senza genitori, uno è in navigazione nei mari del sud, l'altro è un signore della malavita, braccate dalla polizia e in forma diversa asociali. Lisbeth poi fa avverare uno dei sogni di Pippi, fare il pirata, informatico certo, ma sempre di pirata si tratta. Ma torniamo da Pippi per approfondire un altro tema molto presente nelle storie della nostra amica immaginaria, soprattutto nel racconto della Lindgren. Pippi Calzelunghe e il cibo. La nostra amica cucina molto, dai biscotti almeno 500 per volta, alle frittelle al miele, sempre per la felicità di Tommy e Annika. Un rapporto sano e sereno quello di Pippi con il cibo, di cui la nostra apprezza soprattutto l'aspetto sociale. Elisabetta Tiveron ha scritto un libro dal titolo Pippi Calzelunghe, piccola grande cuoca. Pippi Calzelunghe ha un rapporto molto, molto sereno con il cibo, ha molta dimestichezza con il cibo, nonostante sia una bambina, per cui la si vede cucinare, apparecchiare, fare cose che normalmente gli adulti considerano pericolosissime, ma d'altra parte lei vive da sola, è fortissima, è bravissima, può fare qualsiasi cosa, e ha un rapporto molto bello e conosce molto bene quali sono le potenzialità del cibo, inteso come mezzo per comunicare con gli altri, per migliorare i rapporti con le altre persone. Questa cosa è molto, molto evidente poi, nel momento in cui si rilegge Pippi Calzelunghe, tenendo presente questa chiave di lettura del cibo, la cosa poi salta agli occhi subito, perché proprio si vede che in qualsiasi scena in cui Pippi interagisce con gli altri, sia persone che conosce che persone che non conosce, c'è sempre questa cosa del cibo, c'è sempre lei che offre il caffè, che offre i biscotti, che invita a pranzo, che invita a cena, che organizza feste in cui si mangia sempre tantissimo. Come tutti gli svedesi consuma molto caffè, quindi lei offre il caffè, tutti con il caffè ci sono sempre i biscotti allo zenzero, e poi nelle sue feste ci sono questi cibi ricorrenti che sono le salsicce, le torte alla panna, queste cose molto ricche che fanno veramente festa, ecco. Il libro, lo ricordiamo, si intitola Pippi Calzelunghe, piccola grande cuoca, edito da Il Leone Verde Edizioni. Bentrovati all'amico immaginario. Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Come sentite in sottofondo, anche Claudio Baglioni, alcuni anni fa, durante la trasmissione di Fabio Fazio, Anime in gioco, ha omaggiato la nostra Pippi Calzelunghe con un arrangiamento ad hoc. E ammettiamo che fa una certa impressione sentire la voce del cantante italiano intonare il famoso ritornello. Ma voi ridete per quello che fanno. Altro omaggio, questa volta teatrale, è arrivato 2 anni fa grazie a uno spettacolo con la supervisione niente meno che di Gigi Proietti, il musical in Italia di Pippi per la regia e con le coreografie di Fabrizio Angelini e con l'attrice, anche lei tutta lentiggini, Eleonora Tata, 26 anni, nei panni ovviamente della creatura di Astrid Lindgren. Si dice che tu non vada nemmeno a scuola! Infatti, mai vista una! Oh, ma ci devi andare! Devi seguire le lezioni! Le lezioni? E tu ne hai seguite le lezioni? Certo! E infatti si vede, sei tutta lesionata! Senti, Pippi, ci sono tante cose che devi imparare! Tipo? E tipo... le tabelline di moltiplicazione! Sai che ti dico? No. Me la cavo benissimo anche senza le ciambelline di moltiplicazione! Le prove, vabbè, durante lo spettacolo mi sono divertita veramente tantissimo, come non l'avevo mai fatto in vita mia. E è stato un tornare indietro nel tempo, perché mi sentivo veramente bambina e a mio agio nei panni di quel personaggio, perché a parte le lentiggini che abbiamo in comune, non so se hai visto dalle foto, sentivo anche una somiglianza, molta somiglianza nell'atteggiamento fisico, un po' mascolino, insomma una mascolinità di bambina un po' rude. E una cosa che ho in comune, credo, con Pippi Calzelunghe è il fatto di dare molto il corpo liberamente per esplorare lo spazio, questa è una cosa che mi piace molto. Quindi quando mi hanno detto che avrei dovuto arrampicarmi sulla casa, sul tetto, dondolarmi su una diana, insomma questo mi ha reso molto felice. Un ruolo impegnativo non solo per le difficoltà di interpretare una ragazzina di 10 anni, ma soprattutto una come Pippi, con le sue caratteristiche fisiche spettacolari. Eleonora Tata ha dovuto cantare, ballare e naturalmente fare acrobazie. Ancora Eleonora Tata. La fatica fisica c'era, questo è indubbio. Un'ora e mezza di spettacolo in cui non esco mai di scena, come dicevo prima, mi devo arrampicare, saltare, entrare fuori dalla casa, uscire, fare allotta con i clown, con i ladri, però appunto nonostante la mia età ero ben preparata fisicamente e poi come dire, per avvicinarmi ancora di più a lei, a una bambina di 9 anni, il caro Gigi Proietti ci disse, perché sua era la supervisione dello spettacolo, ci disse di non bambineggiare, cioè di non scimmiottare la bambina. Per quale motivo? Perché innanzitutto i bambini odiano l'infantilismo, quindi pretendono un'alta professionalità, anche perché insomma si accorgono quando li si prende in giro, no? Quando c'è una finta condiscendenza nei loro confronti. E quindi proprio perché i bambini sono pieni di vita, sono molto sensibili ai tempi morti, infatti fare uno spettacolo per bambini forse è la cosa più difficile al mondo. Poi che altro posso dire? Beh, ho cercato di restituire al personaggio quella concretezza ed una, diciamo, elementarità con cui Pippi Calzelunghe vive questa sua vita così fuori dal comune, così straordinaria. Visto il rapporto privilegiato avuto con Pippi Calzelunghe, addirittura impersonarla e indossarle i panni colorati, chiediamo a Eleonora Tata per quale motivo la vorrebbe anche lei come amica immaginaria. Beh, la vorrei come amica immaginaria perché, non so, perché è una bambina fuori dal comune, nel senso che se ne frega altamente delle regole e di tutto ciò che la circonda, soprattutto di coloro che non stanno al gioco. Nonostante il fatto che sia una bambina cresciuta da sola, quindi appunto non ha ricevuto un'educazione classica, come tutti i bambini, è riuscita da sola lo stesso a diventare matura. Tutti i giorni, siamo allegri, siamo contenti e cantiamo, cantiamo, cantiamo. Tutti i giorni, siamo allegri, siamo contenti e cantiamo, cantiamo, cantiamo. A quel capitano che una volta ho incontrato a Yokohama, imprecava così forte che dalla bocca gli uscivano lingue di fuoco e gli insulti che usava erano tali che la gente tutto intorno cadeva a terra tramortita. Sei caduta anche tu, Pippi? No, non cado facilmente. Come Come sempre siamo scesi per strada per constatare la vitalità oggi del personaggio di Pippi. Il nostro microfono questa volta però è andato ai bambini, un misuratore di popolarità fondamentale, considerando che i bimbi che abbiamo incontrato sono molto piccoli e forse i loro genitori sono nati negli anni in cui il telefilm iniziava ad andare in onda. Nonostante questo, i nostri piccoli interlocutori conoscono molto bene il personaggio, la canzone, un po' come i bambini che hanno partecipato alle avventure di Pippi negli ultimi 40 anni. Mi piace che si arrampica sugli alberi, che è un po' strana. Ti piacerebbe fare le cose che fa lei? Sì, mi piacerebbe andare con i miei amici a cavallo. Giocare con gli altri bambini. Cosa ti piace di Pippi? Le trecce di Pippi. Perché birichino. Allora ti piacciono le cose sbagliate che fa Pippi? Sì. Tipo? Fai la birichina e non andare a scuola. E poi si arrampica sui soffitti. Mettere in disordine la casa. E non andare a scuola? È sbagliato. Che succede? Papà! Vieni papà, ti porto fuori da qui. Non posso, sono incatenato. Vieni Pippi, aiutami. Spezza le catene. Tu che sei forte ce la farai. Coraggio, fa presto Pippi, insisti. Ci devi riuscire, stanno per arrivare, sbrigati. Ecco fatto. Magnifico, eccomi. Allarmi. La sai la canzone? Un pezzetto. Pippi Pippi Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. Tutto il giorno sto con una scimmietta, un cavallo bianco e un topo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare. Un pochettino, ecco sono qui, Pippi Calzelunghe così mi chiamo. Non la so più. Ti piacerebbe fare qualcosa che fa lei? Sì. Arrampicarmi. Sì, arrampicarci sugli alberi. La sapete la canzone di Pippi? Sì. Pippi, Pippi, Pippi, Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. Boom, boom, Pippi, urra. Boom, boom, Pippi, urra. Pippi, calze lunghe, tu fai tutto quel che vuoi. La canzoncina di Pippi, la versione che sentite, è quella della regina della musica per bambini, Cristina D'Avena. Ma vi diamo un consiglio, una ricerca su YouTube per scoprire le decine e decine di video di bambini che cantano appunto la canzone di Pippi, di cui vi offriamo, come si dice, un medley. Ecco sono qui, vai canta! Ecco sono qui, Pippi canta così mi chiamo. Pippi Pippi Pippi, che non mi fa un po' ridere, ma vuole riderete per quello che farò. Pippi Pippi Pippi, che non mi fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. Pippi Pippi, che non mi fa ridere, ma la ridere che è quello che farò. Tutti i giorni sto con la scimmietta un cavallo bianco, però proprio che come mio formaggio si può mangiare, forse non lo sai, ma di qualche volta divento magica. E poi Pippi Pippi Pippi, non mi fanno l'idea, ma se le delere io che farò? Pippi Pippi Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. E visto che siamo in internet, restiamoci per un altro importante misuratore di popolarità, la ricerca sul web. Come sempre basta un motore di ricerca e il gioco è fatto. Pippi fa chidomiti, Pippi calza largas, Naga kutsushita, no Pippi. Sì, è sempre lei, Pippi calze lunghe in greco, spagnolo e giapponese, ma il suo nome è stato tradotto anche in lettone, vietnamita, thai, ebraico, persiano in più di altre 30 lingue. E sono altrettanti gli idiomi in cui si trovano siti internet che parlano dell'eroina svedese. 94.700 i risultati se su Google si cerca Pippi calze lunghe, abbigliamento, asili, associazioni sportive, premi letterari, abiti di carnevale e quant'altro si può trovare legato ai bambini e all'infanzia, oltre a negozi di calze e filati e ancora itinerari di viaggio in Svezia, compreso AstridLindgrenWorld.com, il parco sulla bimba e la sua creatrice, libri di cucina nordica e corsi per imparare a fare le trecce alla Pippi, una pagina dedicata su vanities.it. Pippi è sinonimo di insolito, tanto che se si dà un'occhiata a Google News si scopre che porta il nome dell'eroina dei capelli rossi, una Zedonk, raro ibrido tra una zebra e un asino, nata in uno zoo statunitense lo scorso luglio. E sono oltre 230 i video che appaiono su YouTube, un doppiaggio in napoletano, versioni death metal della sigla della serie TV, karaoke, decine di video di piccoli che intonano le note della canzone. Fanno la loro comparsa anche due voci note della musica italiana, Cristina D'Avena, che pubblicizza la bambola Pippi, e Caparezza, la canzone è La mia parte intollerante. Alle bestie regalerò i miei sorrisi, come Francesco d'Assisi e Pippi calze lunghe. Che vuoi fare, Pippi? Diventiamo pirati e ci impadroniamo della nave. Noi tre. Ma non è possibile. Con l'astuzia tutto è possibile, diceva zio Fabiano il pirata. Lasciate fare a me. Come sempre vi aspettiamo sul profilo Facebook dell'Amico Immaginario per commenti e suggerimenti. Un grazie per la collaborazione a Chiara Pizzimenti e un saluto da Giovanni Savarese. Al prossimo Amico Immaginario.